media della popolazione è aumentata e sono sempre di più i pensionati che hanno deciso di vivere una seconda giovinezza trasferendosi all'estero in paesi dove il costo della vita è minore e la pensione quindi ha molto più valore. Ad oggi sono circa 400.000 gli anziani in fuga, anche se questo numero è difficile da stimare perché ci sono gli emigrati di vecchia data e i residenti all'estero con doppia cittadinanza. Comunque è un dato molto importante. Partono soprattutto per motivi economici, perché sono stanchi dello stile di vita e delle pensioni insufficienti e sono attirati da stati con un regime fiscale agevolato. Ricevono la pensione dall'INPS direttamente nel paese in cui hanno scelto di vivere e con questa pensione possono permettersi uno stile di vita che qui in Italia non riescono ad avere. Tra i criteri di scelta del paese ci sono il basso costo della vita, la buona assistenza sanitaria e la tranquillità. Insomma, l'Italia, oltre a non essere un paese per giovani, sembra non essere più nemmeno un paese per vecchi. Franco Luigi Tenca, 66 anni, ex camionista, oggi è pensionato, ha scritto un libro, Cosa farò da grande? Vita da pensionato in Bulgaria. Stava a Lecco, poi ha deciso di cambiare vita. Che cos'è che non andava? Ma non andava prima di tutto la pensione che prendevo, perché in Italia con 1.100 euro di pensione, pagando affitto, bollette e mangiando, non arrivavo alla fine del mese. E lì quei 1.100 euro quanto diventano? Qui in Bulgaria 1.100 euro diventano 2.200 leva. Che praticamente è uno stipendio di più di un onorevole. Accidenti, quindi si vive bene. Cavoli, con quello stipendio qua, con quella pensione qua, sì. Però c'è da dire una cosa, che c'è una legge italiana, un concordato Italia-Bulgaria del 10 settembre 90, sì, che dice questa legge, dice che se un cittadino italiano pensionato, residente in Bulgaria, iscritto al fisco bulgaro, dopo 6 mesi e un giorno di residenza bulgara può chiedere la pensione lorda. Cioè a me mi danno tutta la pensione lorda compreso IRPEF. Quindi lei prende quanto di pensione? Pensione netta sono 2.200, sono 3.000 leva. Perfetto, e con 3.000 leva lei che come vive? Mi metto a ridere perché vivo da gran signore. Come un principe. Diciamo molto di più di un principe con 3.000 leva. Senta, ma la scelta di trasferirsi è dipesa solo da queste ragioni economiche oppure le mancava anche qualcosa umanamente? Non lo so, insomma. Sì, umanamente ho trovato una compagna. Fantastico. E a parte la condizione economica, che qui vivo molto bene, non ho problemi. Qui posso dire che quasi tutti i giorni vado al ristorante a mangiare. Qui a mangiare in un ristorante normale spendi 6-7 euro a testa. Ma mangiare per non far finta. E perché ha scelto Sofia, a parte l'amore? La conosceva già la sua compagna? No, assolutamente. L'ha conosciuta lì? Sì, sono entrato così per caso nel 2009, tanto che da 2009 che sono qua da ottobre, sì. Il mese prima, il mese di agosto, sono entrato su internet e ho voluto vedere com'era la vita un po' in certi paesi. Ma perché a Sofia? Perché ha scelto Sofia? Ma perché è la capitale. No, lo so, ma perché la Bulgaria, voglio dire. Così, sono entrato a casa, non è stata proprio una scelta. E con la lingua come fa? Ma con la lingua, diciamo che la lingua, ecco, l'unico problema per un italiano che viene qua è il bulgaro, perché è molto molto difficile rispetto a noi. E lei come se l'è cavata? Ma io me la cavo, parlo francese, inglese e spagnolo. Ah vabbè, allora lì insomma se la caverà. Senta, diciamo, quindi diciamo che a Sofia ha trovato l'America lei. Diciamo che ho trovato di più che l'America. Anche l'amore, più di così. Certo. Senta, certo. Adesso dicono che lei è diventato la guida per gli italiani che vengono in Bulgaria per il portale mollotutto.it. Ecco, come è capitato questo? Sono tante le persone che la contattano? Certo, allora io sono stato intervistato da tante televisioni italiane. La contattano e cosa cercano? Allora, cercano di tutto e di più, appartamenti, come si vive, quanto costa la vita, cosa costa l'assicurazione, se ci sono donne serie, di tutto e di più. Ma taglio subito il discorso, perché per esperienza, se io incomincio a scrivere tutta quella roba qua, come si vive eccetera eccetera, alla fine chi legge un'email non capisce più niente. Sì. Allora io dico, venire qua 2 o 3 giorni, perché con 2 ore dall'Italia sei qua con l'aereo, vedi personalmente cosa costa la vita, com'è la vita eccetera, e poi ti fai un tuo ragionamento, se te ne vale la pena vieni qua. Se conviene o no. Senta, e quante persone la contattano? Tante?